Radio 24 Reportage. Edolo, una sfida per salvare le Alpi, di Cristina Carpinelli. Sole alla valle, sole alla collina. Campagna non c'è più nessuno. Addio, addio, amore. Anche ad Edolo, 4.500 abitanti in Val Camonica, se ne sono consumati di addii. La valle ne può raccontare molti. La terra, amara e amata, è stata lasciata dai ragazzi di tante generazioni, svuotando cascine un tempo rumorose che diventano cimiteri di ricordi, coltivazioni di pregio scomparse per fare posto a coltivazioni di massa che poi si scopre non riescono a competere con la grande industria di pianura. Edolo resta così scoperta tra le Alpi con la memoria dei vecchi contadini appesa, in attesa che qualcuno la prenda e la trasformi. Un tempo questa zona contribuiva in modo importante all'economia. Poi, con lo spopolamento delle valli, è entrata in un cono d'ombra anche Edolo, dalla quale sembra impossibile uscire, se non fosse che per logiche di politica regionale, proprio a Edolo, 18 anni fa, viene aperta una sede del distaccamento della Facoltà Statale di Agraria e da lì le cose cambiano. Qui si è trattato fin qui di fare un percorso nuovo e quindi, come tutto ciò che è nuovo, abbiamo fatto passi uno dietro l'altro, alcune volte sbagliando e dovendo raddrizzare il tiro, ma con il chiaro obiettivo di individuare quegli strumenti che consentono di trasformare le risorse specifiche dei territori montani in attività a valore economico, quindi, come dire, rendere competitivo un territorio che è sempre stato interpretato come perdente, come marginale, come handicappato di principio, quando invece bisogna guardarlo con gli occhi giusti e maneggiarlo con gli strumenti adeguati perché diventi fonte di opportunità professionali, di grande soddisfazione, perché come dire, la novità è che non c'è poca competizione e quindi se si fanno attività di qualunque tipo vocate al territorio e si punta alla qualità, cioè queste attività le si fa con gli strumenti adeguati, si vince. Questa è Anna Giorgi, docente dell'Università della Montagna e direttrice del Polo di Edolo, dove ci troviamo. Nel cuore delle Alpi, al centro del versante meridionale delle Alpi, a 160 km da Milano, sperduto, piccolo comune, 5.000 abitanti, eppure qui arrivano tutti gli anni 250 ragazzi in un percorso triennale da tutta Italia con una grandissima passione e motivazione. Lei prima parlava anche di progetti di grandissimo successo, cioè una competenza che poi sposata al territorio porta di sicuro al successo. Mi raccontava di storie di ragazzi che hanno preso il pezzo di terra e poi l'hanno trasformato utilizzando le competenze che avevano acquisito qui. Assolutamente sì, abbiamo un database oramai di giovani imprenditori che attestano quanto un'azione di questo genere porti poi davvero a costruire e a reinnescare attività tradizionali, perché sono le attività vocate ai territori montani, ma in chiave moderna, quindi con tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione. Imprese partite, come diceva, con insomma il terreno dei nonni, no? Lasciato dai nonni e la cascina abbandonata dai nonni, oggi sono aziende agrituristiche davvero di grande successo, che producono qualità, prodotti che, come dire, hanno caratteristiche organolettiche, ma anche salutistiche, perché queste produzioni realizzate secondo criteri e interpretano la tradizione, perché in qualche modo gli animali vengono alimentati con foraggi locali, con pratiche che richiamano la tradizione, e quindi si produce di meno in quantità, ma molto meglio in termini di qualità e di caratteristiche sensoriali che il prodotto trasmette. E intorno a queste produzioni si innescano laddove a monte c'è un imprenditore consapevole della come dire, potenzialità di ciò che fa, si innescono tutta una serie di altri processi, da quelli educativi, per cui spesso queste aziende diventano meta di scolaresche, che bambini che prendono contatto con l'attività in fattoria e con come dire, gli animali e con la vita del contadino, che però è capace di trasmettere il valore del proprio lavoro in italiano, in inglese, in tedesco, ed è, voglio dire, questa la vera carta da giocare che in qualche modo abilitiamo, ecco. I ragazzi dunque sono arrivati, scarpe da trekking, visi svegli, tanti sogni in tasca che vengono fuori cristallini come il loro amore per la montagna. Quasi tutti scelgono di vivere per il periodo di studi proprio qui, a Edolo, dove si è formata una comunità allegra che accoglie tutti, anche chi ha qualche anno in più, perché tra una cosa e l'altra aveva sbagliato strada. No, pregiudizi non ce ne sono stati. Sostenuto a livello morale, sì, ma a livello economico diciamo che devo un po' arrangiarmi di mio, anche perché ho fatto questa scelta dopo qualche anno di lavoro, quindi... Cosa facevi prima? Meccanico d'auto. Facevi meccanico d'auto e hai scelto di venire a fare l'università della montagna, perché? Perché mi piaceva l'ambiente, mi piaceva le montagne principalmente. Cioè non eri felice quando facevi il meccanico d'auto? No, per niente. E così Edolo, il piccolo centro destinato alla depressione, anno dopo anno vede arrivare questa ventata d'aria nuova, con ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia ed Europa. Io vengo da Varese, ho preso un appartamento qua, vivo qui. Ho iniziato quest'anno a studiare qua, questa è una nuova esperienza e... Sono dalla Val Trompia, ho preso l'appartamento anch'io qua a Edolo. Ho venuto qui in questa scuola perché mi ha sempre appassionato la montagna e... Comunque non è una decisione forse facile, non lo so. Io vengo da Bergamo e ho deciso appunto di venire in questa università per proseguire i miei studi, anche perché ho molta passione per la montagna. Tu sei sensibile al tema dei cambiamenti climatici? Beh, sicuramente, se no non saremmo qua. Comunque l'interesse c'è e qua lo sviluppiamo, lo portiamo avanti con conoscenze un po' più approfondite. E da dove vieni tu? Io da Milano, ho preso una casa qua e torno qualche weekend ogni tanto. Quindi qua siete in tanti a vivere, quanti vivono qua a Edolo ma non sono di questa zona? Ah, quindi è una piccola comunità universitaria, cioè cosa fate poi? Vi vedete anche fuori durante il giorno? Fate delle gite anche nei boschi, continuate a portare avanti i vostri... Ci troviamo al pomeriggio nei momenti liberi, c'è chi va in montagna, chi... varie passioni anche a livello sportivo e poi ognuno... Continuiamo a, diciamo, anche ad approfondire magari ciò che studiamo, ciò che abbiamo appena studiato, lo appunto notiamo attorno a noi quando facciamo delle uscite. Ragazzi che studiano in aula e poi scarpinano per sentieri a cercare risposte e spesso proprio da questo piccolo centro arrivano pubblicazioni internazionali, come ci racconta Luca Giopponi, docente di botanica a Edolo. Si pensa sempre, non so, magari piccolo centro fuori dal mondo, ma in realtà se uno vuole studiare le piante delle Alpi qui, dove andare se non qui? Meglio di qui cosa ci può essere? Milano sì, sicuramente avrà dei macchinari, delle strutture più grandi, ma quando si va in campo, per un botanico è importante anche andare non solo in laboratorio ma anche in campo. Qui siamo a due passi dal... E con i ragazzi andate proprio in giro? Con i ragazzi andiamo. Come si struttura la lezione all'esterno? Cosa fate? Questo è un corso di botanica, quindi noi andremo in buona sostanza a capire come funzionano le piante, ma forse la prima cosa ancora è identificare le piante, capire che piante si trovano nei nostri ambienti, nei nostri boschi, nei nostri prati, nei nostri pascoli, saperle riconoscere, che saper riconoscere è proprio la base per poi poter fare... tutti gli ulteriori studi sulla botanica. A Edolo si coltivano sogni concreti, dunque, e il circolo che si determina è, come si dice, un circolo virtuoso e tocca anche tutti i contadini della zona prima e poi delle aree in cui questi ragazzi tornano a lavorare. È il caso di Mathieu, di Aosta, che da grande vuol fare l'apicoltore. Ho previsto di fare un tirocinio riguardante l'apicoltura con due professori dell'università. Abbiamo visto che sarebbe interessante fare un lavoro di caratterizzazione dei mieli valdostani. Tu stai anche pensando di entrare anche nel tema, quindi del fatto che c'è il rischio che si estinguano addirittura le api, cioè hai scelto questo percorso anche perché è sensibilizzato su questo tema o? Beh, in parte sì, perché comunque soprattutto in pianura si assiste sempre di più a grandi spopolamenti, soprattutto spopolamenti delle famiglie durante l'inverno. Questo non, secondo me, non si nota tanto in montagna. Con l'apicoltura si può valorizzare ancora di più quello che invece in pianura potrebbe essere solo qualcosa di marginale, come lo è tutt'oggi, cioè il settore dell'apicoltura in pianura rimane qualcosa di marginale o di a livello abbastanza hobbistico. E invece in montagna, con le produzioni uniflorali caratteristiche tipiche di quella zona, si riesce a valorizzare molto di più il miele e quindi anche il settore e quindi anche le api in sé. Vorrei rimanere in questo ambito anche perché abbiamo a casa un'azienda, una piccola azienda a livello semiprofessionale, e con mio papà pratichiamo nomadismo, cioè spostiamo le api per seguire tutte le fioriture, partendo dal Tarassaco in primavera per arrivare poi a Rododendro di alta montagna a 2000 metri ad agosto. La valle si è arricchita di sogni che poggiano a terra i piedi, come questi ragazzi che ad ascoltarli danno speranza vera, reale, perché il mondo sia un posto migliore. Lassalo andare, no aver paura, fallo volare alto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.